It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le norme igieniche vengono sistematicamente violate, Kappa e Drago parlano del colonnello Unviute. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Qui neanche. E allora? Neanche. Niente, Drago. Le notizie sul golpe del colonnello Unghiute non sono state confermate, però questa musica classica non promette niente di buono. Eh già, musica classica uguale golpe. Quindi quando cerchi un'altra stazione e poi ti imbatti per caso in Radio 3, sembra sempre che in quel momento ci sia un golpe in atto, devi stare... Sì, però adesso... La stessa musica classica su ogni frequenza, ah. No, Drago, no. Non è mai successo. Il colonnello Unghiute ha preso il controllo della radio. Fuori di qui sta regnando il caos. Ma te lo immagini quel gorilla di Unghiute che siede al posto del Presidente della Repubblica al Quirinale? Drago, i squadroni del colonnello Unghiute potrebbero anche arrivare qui e mettere a ferro e fuoco la fabbrica. Ma figurati, Kappa, hanno così tante persone da mangiare qua fuori che non penseranno certo a noi polli. I nostri polli possono andare a cresta alta. Eh già. Polli. Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso. E cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle? Figlio di Apollo, io lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dei un pollo, per sempre pollo resterà, resterà. Yes, cruel. Oh, yes, it's cruel. Oh, yes, it's cruel. Oh. You are the cattle, and we are the keepers. Kappa, io continuo a sentirmi strano. Oh, a chi lo dici? Ma non è solo la pollizzazione. Quello ormai va da sé. Ma è un'altra sensazione. Te ne ho parlato due mezzanotti fa. Vedi puntata numero 27. Ah, la sensazione del gatto castrato. Sì, quella. Ma cosa ci vuoi fare, Drago? Ormai la vita episcopale è solo un bel ricordo. Episcopale. Beh, bastava pensarci, no? Pollastri. Quando si parla di queste cose esce sempre lo scoperto e il pollo in sbattimento. Non ti perdi un'occasione. No, e poi oggi sono più in sbattimento del solito. Perché? È per via del golpe, no? No, non ci hanno dato il mangime. Infatti è vero. Io ho fame. Anch'io sì. Ma basta, no? E chiudi sto becco. Attenzione. Ma chi se ne frega del mangime? Beh, come? Appena detto. Ho capito, ma a me interessa la paroxetina, no? Invece per colpa di sto colonnello unghiute, madonna che rabbia che c'ho addosso, eh. Ma cosa? No, guarda che se ci avessi qua davanti il colonnello unghiute, gli do una beccata che una, gli do due o tre di quelle giuste che lo lascio per terra, eh. Ma guè, è un gorilla gigantesco. Beccate! Allora... Beccate. Beccate, cosa fai? Invochi le beccate. Vabbè. E quindi adesso sei senza paroxetina. Eh sì, adesso mi devo sbattere da solo, eh. E quindi? Vado a rubare. Ma come a rubare? Ma come a rubare? Cosa? Ma... E ho capito. Faccio, ne faccio meno. Vado a rubare la paroxetina, a qualcun altro. Ma sì? È tipo quel ciula lì. Ehi, Tarek. No, Tarek. Ma chi è Tarek? È Tarek, no? Eccolo qui. Ma è un po' lo giovane. Figurati che due settimane fa era ancora un pulcino. Salve amici. Amici chi? Ma sì, chi è? Sì, lascia stare. Questo qui è così di natura. Vede, chiunque vede dice amici, amici. Spec, brie e patate d'olive. No, cosa de... Spec, brie e... Patate d'olive. Ma scusa, è sempre così? Sempre. Beh, allora lui gliela puoi anche rubare la paroxetina, eh? Sì, ma non solo gliela posso rubare, ma posso anche dirgli in faccia che gliela rubo, no? Mi faccio vedere da lui mentre gliela rubo. Tarek, Tarek, Tarek. Allora, adesso ti rubo la paroxetina e ti racconto un mucchio di fandonie. Così ti confondi, eh? Va bene? Sì, sì, ok, ma ce l'hai Spec, Bri, patate d'olive? Sì, sì, ce l'ho, Tarek, mamma mia! Ma cos'è, un pollo che mangia Spec, Bri e patate d'olive? Patate d'olive? Patate d'olive, vabbè, patate d'olive. Sì, ma questi qua erano pulcini l'altro ieri, sì. Hanno dei gusti un po' strani. Cioè, un po' strani come? Perché sono quelli che si fanno influenzare dalla televisione e dalla pubblicità, no? No, vabbè, sì, infatti in TV è tutto uno spot di Spec, Brie e patate d'olive. No, ma però, scusa, lo Spec è pubblicizzato in radio. Gustav Tony. Infatti. Cioè, sentite, qui non cambiamo discorso. Gustav Tony e il patate d'olive. Patate d'olive? Episcopale, cosa si fa allora? Episcopale io non ho idea. Nemmeno io, nemmeno io. Statemi a sentire, va? Lasciate stare. No, ma perché? Non è più tempo episcopale. Ah, no? No, Ma peccato. Sentiamo un po' questo qua. Tu, Tarek, l'hai già trovata una bella gallinella giovane episcopale? Patate d'olive? Niente, niente. Questo non ci sta con la testa. Anche lui non è tanto episcopale. Non mi sembra che sia tanto episcopale. Però che tristezza, che tristezza. Che tristezza. Tutti maschi. Tutti senza grandi speranze episcopale. Ma come si fa? Episcopale. Serve una gallina episcopale? Mami, mami, I want one of those! Che cosa succederà adesso? La voce femminile che ha detto... Vi serve una gallina episcopale? È davvero una gallina episcopale? E se è davvero una gallina episcopale, chi vincerà la gara episcopale e la gallina episcopale? Kappa? Drago? Il pollo in sbattimento? O il giovane pollo Tarek? Lo scoprirete solo domani sintonizzandovi a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo episcopale allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. Good night, ladies and gentlemen, good night.